Friuli nel mondo. Friuli nel mondo, sesta trasmissione dedicata agli emigrati all'estero. Arturo Zardini, il cantore emigrante. Testo di Dino Menichini. Partecipano alla trasmissione il coro Arturo Zardini di Pontebba, diretto dal maestro Gino Piemonte. La banda e la scuola cantorum della parrocchiale di Pontebba, dirette da Don Lionello Baraccetti. Musiche originali di Arturo Zardini. Per Arturo Zardini, morto 30 anni fa, nel 1923, si può ripetere con Sant'Agostino che i morti lasciano la terra ma non lasciano la vita se il cuore diventa il tempio della loro memoria. Egli infatti è più vivo dei vivi. La sua voce ci raggiunge sempre e ci conforta attraverso le più belle canzoni e le più armoniose villotte del Friuli. Egli riassume la parte migliore del suo popolo, il quale ama affidare ad un motivo di canto ogni sua emozione, i trasalimenti dell'anima di fronte alla natura e all'amore, gli struggimenti dell'anima nei momenti degli addii e della nostalgia. Egli è doppiamente caro al vostro cuore. Suoi i motivi che avete cantato quando eravate nelle vostre case. E anch'egli, come voi, emigrante, lasciò il paese, la valle, gli affetti per cercare lavoro nel mondo. Sua e vostra l'aria del canto che state ascoltando. Pontebba, fino agli anni che precedettero la Prima Guerra Mondiale, era il punto di confluenza e di partenza di tutta l'emigrazione friulana verso l'Europa centrale. Ogni primavera, decine di migliaia di lavoratori fornaciari e muratori, nella maggior parte, cui si aggiungevano boscaioli e tagliapietre, capimastri e decoratori, rivolgevano da Pontebba l'ultimo sguardo al profilo dei monti natii, ai torrenti che rispecchiavano l'ultimo lembo di cielo italiano. Avevano la bocca amara di poco pane e di molte parole non dette. I giovani risentivano il bacio della mamma, gli adulti quello della sposa. Come contenere le lacrime? Anche Arturo Zardini, ragazzo allora di povera famiglia, prese il suo piccolo sacco e si avviò verso la Carinzia, verso la Stiria, per fare la stagione sulla fornace. Era forte di cuore e vigoroso di membra. Il lavoro gli piaceva, lo entusiasmava. Poi nell'autunno gli emigranti tornavano in una ventata di grida, di canti, di affetti, ritrovati dopo essere stati gelosamente custoditi nello scrigno del cuore. La fisarmonica, acquistata in Germania, apriva spesso il corteo dei reduci con indimenticabili motivi paesani. Si tornava a vedere il Friuli, la ragazza sognata sui duri giacigli stranieri. Lo Zardini, interpretando il sentimento di tutti, avrebbe detto in un canto che mai, come allora, nella gioia del ritorno, gli occhi della fanciulla amata sarebbero apparsi così luminosi. Due stelle. E che la sua bocca nel bacio tenero del ritorno sarebbe stata dolce come un bonbon. Una Madonna in una parola da ascoltare in ginocchio quando parlasse appena. Intitolò Serenade questo suo canto, dolce come una notte di maggio. Amore e primavera vanno insieme, canta un poeta moderno. È una massima che vale per tutti, una verità da che mondo è mondo. Eppure mai ciò è tanto vero quanto in Arturo Zardini. Amore e primavera sono l'argomento della maggior parte dei testi che egli stesso scrive per rivestirli di musica. E chi non ricorda questa sua primavera, canto di gioia forte e soave ad un tempo che il popolo fece immediatamente suo? Vibrano in queste parole e in queste note semplici e melodiose una grazia e una serenità incomparabili. Si comprende come il popolo friulano riconosca in questi canti i propri caratteri atavici, precisi ed incorrotti, riconosca intatto e purissimo il volto della propria spiritualità. L'emigrante di Pontebba non perdette mai il contatto con la sua gente. Non si lasciò fuorviare da estetismi che non si adattavano al suo libero estro. Egli aveva compreso che l'arte è espressione di emozioni umane. Se il lavoro artistico, se dimentica l'uomo, è sterile esercizio che può raggiungere il virtuosismo ma che esclude la partecipazione degli altri alle ricerche dell'artista. In questa profonda e ininterrotta aderenza dello Zardini all'anima del popolo sta la sua grandezza. È l'anima del popolo friulano, ricca nella sua fermezza morale di sfumature, malinconica e ilare, pensierosa e festevole. Diremo con Gabriele D'Annunzio che sembra lenta ed è pensosa, che sembra mobile ed è fedele. E che è soprattutto canora. Il friulano esprime attraverso il canto tutto se stesso. Lavora sodo, ma ama ricreare lo spirito col canto e con la danza. Questa Staiare è un calzante esempio dell'abbandono della nostra gente alla vivacità del ritmo. Questo ondante tempo di mazurka rispecchia la netizia del vivere quando si ha la coscienza di aver compiuto il proprio lavoro.